frutto dell'errore. Schiavi del sentito dire, della facile sentenza. Fare pace con un dito per pulirsi la coscienza. Delle belle faccende anche quale vale piene. Duro tenero nel cuore, il sangue buone nelle vene. La mia bandiera, il mio colore, la mia storia di ribelle. Cambiare rotta si può fare, ce l'ho scritto sulla pelle. Batte ancora forte il cuore. Brucia gli occhi il mio sudore. Cado senza far rumore. Batte ancora forte il cuore. Difficile resistere col cuore fatto a fette. Gli occhi brillano di sogni frantumati e ricuciti. Top sul giubbotto dai colori ormai spediti. Brucia ancora l'orizzonte, brucia ma non è finita. La bottiglia ancora piena, carta e penna tra le dita. Nel cielo ancora grigio, ora voglio ripartire. Il sorriso di piangere, l'invidioso fa morire.